Europa 24. Buon pomeriggio da Laura Bettini. In primo piano in questa edizione il Consiglio europeo, sul tavolo il tema di migranti, sicurezza ed Europa a due velocità. A quante velocità deve avanzare l'Europa? Una, due, tre? L'argomento è spinoso, se non addirittura controverso. Ne hanno parlato oggi i capi di Stato e di Governo dei 27 e riuniti qui a Bruxelles nel secondo giorno di una due giorni di incontri. Il tema del futuro dell'Unione sarà al centro della dichiarazione che i Paesi membri vogliono pubblicare il 25 marzo in occasione delle celebrazioni per il 60° anniversario dell'Unione. Mentre i Paesi della zona euro chiedono un'Europa a geometria variabile, nella quale i Paesi interessati a maggiore integrazione possono avanzare più speditamente, altri Stati membri sono contrari a questa possibilità. Molti Paesi dell'Est, in particolare, temono una segmentazione del mercato unico e chiedono unità a 27 più che un'Europa a più velocità. Il nodo non è banale e il rischio è la paralisi, proprio mentre l'uscita del Regno Unito dall'Unione fa temere una sua disintegrazione. Molto probabilmente la dichiarazione di Roma sarà ambigua, perché tutti possono trovarvi il proprio tornaconto. Beda Romano, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Bruxelles. La Gran Bretagna è pronta a respingere la richiesta dell'Unione di un conto da 60 miliardi di euro per il divorzio da Bruxelles. Lo ha detto il ministro degli esteri Boris Johnson alla BBC. Johnson ha poi evocato l'esempio di Margaret Thatcher, protagonista di un duro braccio di ferro sui versamenti all'Europa. Il riferimento a Margaret Thatcher è quello del vertice in cui la Lady di Ferro scandì il suo famoso «I want my money back», «Voglio il mio denaro indietro». Johnson ha bollato come non ragionevole una somma del genere. Arriva alla Corte europea la protesta delle ballerine discriminate. Ballerine italiane in rivolta perché discriminate in base al sesso da una legge che la Cassazione ha spedito dritta alla Corte di Lussemburgo. Immediata la trasmissione all'Europa degli atti dei ricorsi di alcune ballerine del Teatro dell'Opera di Roma per sospetto di una legge, quella di riordino dei lavoratori dello spettacolo del 2010, lesiva del principio comunitario di non discriminazione in base al sesso. Violazione delle pari opportunità. La legge manda le ballerine in pensione a 47 anni, mentre la stessa normativa consente ai colleghi uomini di rimanere in servizio, in questo caso sul palcoscenico romano del Costanzi, fino a 52 anni. In attesa della decisione della Corte di Giustizia europea, la causa è stata sospesa, ma potrebbe passare almeno un anno e il tempo è prezioso. Serve l'intervento del giudice europeo, che è competente a pronunciarsi, oltre che sull'interpretazione dei trattati, anche sulla validità e l'interpretazione degli atti compiuti dalle istituzioni, dagli organi o dagli organismi dell'Unione. Dunque anche sulle leggi dei singoli stati, quelle che rottamano precocemente le artiste che danzano sulle punte e non vogliono appendere le scarpette al chiodo, almeno non prima dei maschi. E come loro, se via delle scene in anticipo, potrebbero comunque essere insegnanti, assistenti di coreografia, direttori e direttrici delle scene, delle luci. In totale parità. Anna Marino, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ed è tutto per questa edizione. Buon proseguimento d'ascolto. Europa 24. In collaborazione con Euronet Plus.